ho detto questa causa è persa. Non è che se ti concentri cambia il tempo alla finestra, piuttosto che finire a fare un testa a testa. Resto per la croce come il chirichetto a messa. Dicono di me che me la pavo meglio, fammi aria col ventaglio se sai fare solo peggio. Se vuoi fare macello metti coltelli al maneggio, se poi vuoi fare paura metti un chihuahua al cancello. No, non è possibile pensare ad affondarmi, non sono il Titanic, vado solo in mari grandi. Oggi pigli il tetano, tanto soffro e tagliente, tappeto a tavoletta, Latino fa l'incidente. Firmami il cheat che ti firmo il cd, che ti insulto così molto amichevolmente. Pensa tu per me che mi sono rotto il pene, volgarmente arrivo un cazzo come nana da marciapiede. Ehi nana, vuoi fare un giro con noi? Ma fatti chiari, noi facciamo l'amore come gli animali. Ehi ladra, vuoi una storia rubata? Se ci riempi di baci ti esce una rima baciata. Baciami amore, ho la mononucleosi, il nucleo familiare sono i soliti ignoti. Baciami amore come fanno qui gli sposi, che ridono, piangono e poi dormono da soli. Baciami amore, ho la mononucleosi, il nucleo familiare sono i soliti ignoti. Baciami amore come fanno qui gli sposi, che ridono, piangono e poi dormono da soli. La vigilia di Natale, l'avvocato, il tribunale, l'amicone, l'amichetta, la madetta, un animale. La minestra riscaldata, tacchia spillo su stivale. Dai, baciami amore, ho la lingua circolare. Da bravo gentiluomo ascolto, poi guardo lo sconforto, ed innanzi ad una coppia di vecchi mi vedo morto. Caput, kebab, kamikaze con la kefia, Kabul, capisci, kaboom. Vuoi una fuga di notizie dalla CIA? Domani sarà peggio non andare in farmacia. Ia, ia, metti via, via. Siete il fumo dei Maghreb sequestrato dalla polizia. Con ogni probabilità mi rivedrete con il corpo ingarbugliato dentro ad un quadro svedese, con due amiche bielorusse in lotta per il mio gamete. Con due piedi nello stesso stivaletto in cui vivete. Correte a piedi scalzi su una tortura cinese. Correte ad accoppiarvi che non ve ne pentirete. Rete, prete, sete, lete, prete. Malati di diabete. Baciami amore, ho la mononucleosi, il nucleo familiare sono i soliti ignoti. Baciami amore come fanno quegli sposi, che ridono, piangono e poi dormono.